tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale. Iniziamo dal cimitero dei feti Vergogna Italiana, una lettera inviata alla Repubblica. Ogni giorno un doloroso motivo per vergognarmi di essere italiana. Tentativo di svuotare la legge 194 sull'aborto. Presumo che non molti possano ora capire la salvaguardia della salute che tale legge ha offerto a donne spesso vittime di uomini violenti e ignoranti. La scelta di abortire è sempre un dramma, ma talvolta inevitabile. Mi domando quanto della realtà amministrativa romana, compreso questo famigerato cimitero dei feti, con croce e nome della donna, sia a conoscenza della sindaca. E sempre contro le donne, il Piemonte, i fanatici leghisti, i soliti reazionari, sfida il governo, pillola abortiva solo in ospedale. E viene intervistata la Bonino, sempre sulla Repubblica, è un attacco ai diritti delle donne, così si torna indietro. Ecco, con i leghisti si torna veramente al Medioevo. E vediamo agli scandali del Cardinal Becciu. Ottima copertina dell'Espresso di un paio di numeri fa, fuori mercanti dal Tempio, ma lì è tutta una cricca di ladri e di affaristi. Ottima la vignetta di Altan, un prete dice all'altro: come va? Al solito, si pecula, si intrallazza. L'Espresso del 4 ottobre, sempre lo scandalo del Cardinal Becciu, non voleva solo dare soldi ai fratelli, nepotismo, storica piaga del Vaticano, ma imporre il suo dominio su tutto il cattolicesimo, attraverso una rete internazionale di società, fondi e affari non limpidi. E abbiamo poi la foto di quello scandaloso palazzo di Londra, invece di investire i soldi per i poveri, compravano lussuosi palazzi di lusso. Il meccanismo opaco, una squadra di lobbisti. La solita cricca del Vaticano. Il Vaticano è tornato? Il Cardinal Pell condannato per pedofilia e poi prosciolto. Una visita che annuncia nuovi scenari. Pare ci siano state delle calunnie diffuse proprio dal Cardinal Becciu, ma poi ritorniamo più avanti su questo. La Segreteria di Stato ci impedì di indagare sui conti del Vaticano. Scandali del Vaticano. C'è approssimazione nella gestione delle finanze. Come è stato possibile affidarsi a faccendieri così chiacchierati? Ma qui è sempre stato un giro di faccendieri in Vaticano. E Becciu scrive al Papa, dopo l'ira una lettera di scuse, però il furbacchione non si è presentato davanti ai promotori di giustizia del Vaticano, in quanto può essere arrestato. Lo stesso commercialista licenziato dalla Santa Sede ovviamente non mette più piede in Vaticano per paura dell'arresto. È stato condannato il vescovo Sannita a 1 anno e 4 mesi per aver sottratto 894.000 euro a un sacerdote anziano mezzo demente, circonvenzione di incapace. Tale ex guida della diocesi di Alife Caiazzo, condannato a 1 anno e 4 mesi per circonvenzione di incapace. Hai visto? Il grande labirinto del Vaticano nelle lettere a Corrado Augias. Il grigio Augias, i migliori volano come coriandoli, ma che bisogno ha il Vaticano di tutti sti soldi? Investimenti che servono solo a ingrassare mediatori, faccendieri, prelati, la truffa dell'8 per 1000? E qui Augias, sempre un po' evasivo, si attacca alla donazione di Costantino. La truffa dell'8 per 1000. Il Cardinal Pell, il Monsignore pentito. Le accuse di pedofilia a Pell furono costruite dal Cardinal Becciu, calunnie fra preti, il complotto svelato da Monsignor Perlasca. E passiamo ai pedofili veri e propri, arrestato a Quilloca, un paese, un grosso paese vicino a Santiago del Cile, un sacerdote accusato di abuso sessuale contro un bambino di 14 anni, 9 settembre 2020. Dall'archivio storico della Biblioteca del Libero Pensiero di Fano, 1 agosto 1874. Arrestato un prete a Napoli per circonvenzione di incapace, vedi, questo è uno dei crimini più frequenti della Chiesa. un moribondo indotto a testare a favore di un'amica del prete. Vittoria anticlericali. E il comune di Nerviano, in provincia di Milano, apprendiamo con piacere che l'ex convento dei frati olivetani è stato trasformato in in sede del municipio. E quindi da angolo divino a angolo divino, perché è stata fatta in questo chiostro una mostra di vini. Dal notiziario anticlericale di Pierino Marazzani, domenica 3 ottobre 2019. Vaticano, scandalo milionario, sequestri e sospensione di funzionari e operazioni illecite. 4 ottobre 2018. Durissimo confronto in Vaticano a porte chiuse con i vescovi del Cile sugli scandali dei preti pedofili. 5 ottobre 2019, resi noti finalmente i primi 2.800 nomi di bambini indigeni deceduti nelle scuole cattoliche canadesi, dove erano stati sequestrati e vivevano in condizioni igieniche quanto mai scarse. 6 ottobre 1571, Don Girolamo di Bernardino da Pesaro impiccato e poi arso a Roma per motivi imprecisati su ordine papale. 7 ottobre 1567, l'eretico Alessandro Panzacchi condannato a morte dall'Inquisizione a Bologna. 8 ottobre 1630, in piena epidemia di peste, il clero della città di Prato organizza una affollatissima processione che servì solo a diffondere il morbo. 9 ottobre 1965, seminarista diocesano di 10 anni annega Vicenza in un fiume di disgrazie clericali. Concludiamo col fulmine anticlericale del 10 ottobre 2019. Fulmine anticlericale colpisce una chiesa a Mister Bianco Catania, un passante ricoverato sotto shock. Bene, saluti a tutti, alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Per informazioni e notizie sul calendario e altri miei libri, 331-730-2874. Saluti. Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato, e nei governi sarà il ricordo di infame passato, l'aborrito sparirà, così pure preti e soldati, e nel mondo solo resterà l'ideale in cui siamo animati. E allora nel cuore, pensando all'avvenire, che sarà lo strazio e vive soffrire.